dentro i fucili, carri armati e bombe. Contro le giunte militari, le tombe. Contro il cielo che ormai è pieno di tanti ordigni nucleari. Contro tutti i capi al potere che non sono ignari. Contro i massacri di Sabra e Shatila. Contro i folli martiri dell'Ira. Contro inique sanzioni, crociate americane. Per tutta la gente che soffre e che muore di fame. Contro chi tiene la gente col fuoco, contro chi comanda e ha in mano il gioco, contro chi parla di fratellanza, amore e libertà, e poi finanzia guerre e atrocità. Contro il razzismo sudafricano, contro la destra del governo israeliano, contro chi ha commesso stragi, pagato ancora non ha, per tutta la gente ormai stanca che vuole verità. Tutte le intolleranze, contro chi soffoca le speranze, contro antichi fondamentalismi e nuovi imperialismi, contro la poca memoria della storia. Contro chi fa credere la guerra un dovere, contro chi vuole dominio e potere, contro le medaglie all'onore e alla santità, per tutta la gente che grida libertà.